Italia in controluce. Il pomeriggio di Radio 24, oggi è l'11 di luglio, in studio Daniele Biacchesi che coordina e conduce questo programma della redazione di Radio 24. Il fotovoltaico, dagli studi più recenti, è diventata la prima energia rinnovabile utilizzata in Italia. Come funziona il suo mercato? Chi sono gli artefici di questa rivoluzione energetica? Qual è lo sviluppo? Sentiamo il reportage di Laura Bettini. Si parte stasera, è meglio domani. Denigrate e bistrattate da molti, soprattutto legislatori, le rinnovabili ce la stanno comunque facendo. I frutti non sono ancora del tutto maturi, ma il raccolto promette bene. Dice l'ufficio studi di Confartigianato che, idroelettrico a parte, il fotovoltaico è diventato la prima energia rinnovabile d'Italia, superando l'eolico. Sotto questo sole è bello pedalare, sì. Ma soprattutto, visto che questa non è una gara tra rinnovabili, Confartigianato ci dice che con la sola energia prodotta dal fotovoltaico in tutta Italia potrebbe essere soddisfatto il fabbisogno energetico delle famiglie di tutto il sud Italia. Francesca Sabatini, settore energia di Confartigianato. Partendo dall'analisi dei dati, sicuramente si può dire un elemento particolarmente rilevante che è accaduto a febbraio, ovvero il sorpasso storico, diciamo, del fotovoltaico rispetto all'eolico, diventando così la prima fonte energetica rinnovabile d'Italia, ad eccezione ovviamente dell'idroelettrico. Divario che a maggio oltretutto è stato incrementato, tant'è vero che la produzione di fotovoltaico supera del 26% i gigawattora prodotti dall'eolico, che sono pari a 11.000. Però un dato credo su cui riflettere è il seguente: il fotovoltaico rappresenta il 26% circa della produzione energetica italiana, contro il 73% del termico. Questo dà l'indicazione di dove la strategia energetica nazionale deve tendere nei prossimi anni per ottenere un mix energetico compatibile ed equilibrato. E poi ci sono i benefici d'impresa e occupazionali. Spesso si parla troppo di costi del sostegno per le fonti rinnovabili. Non bisogna parlare soltanto del costo delle fonti rinnovabili, ma dei benefici. Benefici che sono di natura economica. Pensiamo ad esempio il numero di impianti entrati in esercizio nell'arco di quest'anno, 174.000. Numero di impianti che è raddoppiato nel corso di un unico anno. Creazione e occupazione. Prendiamo ad esempio il sistema delle costruzioni. Sappiamo tutti che in questo momento vive una profonda crisi. Se un settore che perde 100.000 occupati all'anno, un decremento del 5,2%. Nonostante questo, nel settore dell'installazione nel 2011 abbiamo registrato una crescita dell'occupazione di quasi il 12% su base annua. Questo che cosa ha portato? Crescita di nuove imprese. Imprese legate alla green economy crescono in Italia e solo nel primo trimestre 2012 registriamo 92.000 imprese potenzialmente interessate a questo settore. Dinamica che si evolve, quindi abbiamo una evoluzione delle imprese. Facciamo un esempio: tra il primo trimestre 2009 e il trimestre 2012 abbiamo visto che il cluster delle imprese potenzialmente interessate è cresciuto del 10%. Dato ancora più significativo nel mezzogiorno, in cui si registra una crescita del 12%, ben 4 punti in più rispetto alle classiche aree imprenditoriali del nord-ovest e del nord-est. Sono dati straordinari, considerata la situazione attuale. In Europa soltanto la Germania ha registrato un aumento dell'occupazione nel settore, ma con una performance comunque inferiore a quella italiana, più 1,2%, anche se, come è noto, lì si parte da livelli già assai più alti. L'andamento in Europa in generale è simile a quello italiano. Comunque, la filiera del fotovoltaico, dice Euroobserver, è quella che ha conosciuto il boom maggiore nel 2010, con un tasso di crescita anche del 70% in paesi come Germania, Francia e per l'appunto Italia, creando un giro d'affari di 45,5 miliardi di euro, anche se guardando al numero di occupati in Europa sono ancora le biomasse solide il comparto che fornisce più posti di lavoro, precedendo il fotovoltaico. La mia generazione senza vento sono. Ma con che occhi guarda il legislatore a un settore così in crescita e così promettente? Io aspetterò. A corrente alternata, si potrebbe dire, tanto che Confartigianato promette di battersi, ancora Francesca Sabatini. Occorre lavorare per collocare la politica in materia energetica all'interno della direttiva tracciata dall'Unione Europea, così come delineato dalla famosissima direttiva 2020, di cui tutti parlano, ma poi concretamente non è spesso collocata nella politica italiana, e occorre seguire la roadmap del 2050. Dobbiamo lavorare in questa direzione e soprattutto non dobbiamo confondere promozione e sostegno con aggravio delle tariffe. Le faccio un esempio, la 3 famosissima, di cui ne abbiamo parlato tantissimo nei mesi precedenti, è la componente che sostiene gli impianti fotovoltaici economicamente, sì, ma grava il 19% sui clienti domestici, quasi il 40% sui clienti in bassa tensione, soltanto il 7% sui clienti in alta e altissima, quindi i grandissimi impianti. Noi spingiamo sempre e da tempo su misure di perequazione che siano eque, eliminando i benefici a favore dei pochi. In questo l'auspicio è di correggere il tiro dell'attuale decreto crescita, che sul fronte della fiscalità energetica, a nostro avviso, va ad acuire gli attuali squilibri, lasciando la copertura degli oneri esclusivamente in capo al sistema imprenditoriale della micro e piccola impresa a favore degli energivori. Mano dal finestrino, domani io partirò. Di certo, intanto, c'è che dal 1 luglio, per accedere agli incentivi, le aziende che producono o importano pannelli fotovoltaici dovranno garantire anche la corretta gestione dei moduli a fine vita, cioè quando diventeranno spazzatura. Insomma, anche i pannelli diventano rifiuti come tutti gli altri e hanno bisogno di un consorzio di riferimento. Consorzio, ad esempio, come il COBAT, di cui Michele Zilla è direttore generale. Dal 1 luglio tutti coloro che vogliono utilizzare gli incentivi finanziari messi a disposizione per chi investe nel fotovoltaico devono, tra le tantissime cose già previste negli anni precedenti, devono dotarsi di un sistema di raccolta per garantire chiaramente allo Stato, al GSE, che sta per gestore dei servizi energetici, cioè colui che fisicamente poi eroga il quattrino, dare una garanzia che quando il prodotto fotovoltaico, quando il modulo diventa rifiuto, bene, qualcuno se ne deve occupare. Perché sennò succede una cosa molto strana, come diciamo che alcune volte in Italia capita, che noi cittadini siamo già chiamati a pagare questo, diciamo, incentivo nella nostra bolletta energetica che paghiamo ogni mese con la bolletta della corrente elettrica. Se poi abbiamo anche un danno ambientale dovuto al fatto che questi pannelli possono restare nell'ambiente, capisce che diventa un problema non indifferente. Qui si tratta di un rifiuto che ha lunga vita, e anche questo è una delle complicazioni, forse. Questa è la complicazione per eccellenza, perché noi siamo stati abituati nel sistema italiano, tenga conto che il COBAT si occupa da 22 anni di pile, accumulatori al piombo, di rifiuti che si chiamano apparecchiature elettriche, elettroniche, cellulari, computer, il cui ciclo di vita, pneumatici anche, il cui ciclo di vita è comunque in uno spazio temporale molto ristretto. Quando diciamo ristretto vuol dire anche 3 anni, 4 anni. Come possiamo garantire noi come COBAT che se oggi uno immette al consumo un bene, fra 25-30 anni esistiamo ancora? E questi sono appunto i parametri che queste regole applicative emanate dal GSE, dal gestore dei servizi energetici, ha identificato. E sono fondamentalmente due. La prima è che ci sia la tracciabilità del bene. Teniamo conto che, essendo un prodotto soggetto a incentivo, vuol dire che se noi mettiamo un pannello fotovoltaico in una piana, diciamo, la pianura padana, vuol dire che gli incentivi sono per quel impianto, non per qualunque tipo di pannello. Quindi quell'impianto deve essere allocato in quel posto. Bene, quel posto, quel pannello produce quell'incentivo, il GSE vuol sapere esattamente la tracciabilità. Come facciamo a sapere che in quell'impianto esiste quel pannello che è soggetto a quel tipo di contributo? Bene, quando questo pannello finisce il suo ciclo di vita, e quindi il secondo argomento è l'aspetto finanziario. Bene, sempre il GSE in queste regole applicative ha identificato un meccanismo che si chiama sistema finanziario che permetta, al di là del ciclo di vita dell'azienda COBAT, ipotizziamo che noi tra 25 anni siamo costretti a chiudere per n motivi, mi raccomando, ci sia un sistema terzo che possa garantire per tutti quelli che rimangono il fabbisogno finanziario per intervenire a smaltire il prodotto. Un peccato che non ci sia la stessa attenzione per tutti gli altri aspetti della questione. In vacanza sul sole. Italia in Controluce, torniamo domani alle 13.30 su Radio 24 con un reportage di Alessandra Tedesco sui principali festival letterari che si tengono d'estate in Italia. Vi ricordo, andate sul nostro sito radio24.it dove potete riascoltare questa come tutte le puntate di Italia in Controluce e scaricare naturalmente il podcast. Poi naturalmente se volete vedere e capire cosa stiamo facendo, su Facebook abbiamo la pagina del gruppo, su Twitter e la nostra mail è controluce@radio24.it.